lo dedichiamo con una mano sul cuore a questa radio dove praticamente sono cresciuta e a tutti gli spazi liberati di questa città, di questa città che non è solo merda ma che è un'altra Roma, anche quella Roma ribelle e mai domata di una canzone che è ancora portatrice di bellezza. E quest'altra Roma era quella che gridava il Sor Capanna, sentite che vi dice il Sor Capanna, strillava. E il 1900 si avvicina e è ritornato il tempo della manna, che a Uffa ce la danno la farina. Un'altra Roma, quella che strillava così, quella del 1942, quando le autorità di regime ripristinarono la festa trasteverina detta Festa dei Noantri e il duce in persona ordinò l'illuminazione di tutto Viale Trastevere, allora Viale del Re, con centinaia di festoni ornati di lampadine nonostante l'autarchia e la guerra. E una scritta diceva: Trastevere, Trastevere, brilli di tanta luce, ti fan corona il duce, la Madonna e il Re. Quell'altra Roma, invece, poi, durante la notte, mani ignote, ruppero con la fionda, ad una, tutte le lampadine, e alla scritta edificante furono sostituite ste parole qua: stanchi de tanta luce, volemo sta all'oscuro, andatevene a fanculo, duce, Madonna e Re. Un'altra Roma. Un'altra Roma che ha più storia di ogni altra città. Ma è una storia che ci grava addosso con tutto il peso del Colosseo e del Cupolone, come il cappello da prete che la ricopre nella prima scena della Dolce Vita. Questa storia è un'altra storia, una storia non di pietre, ma di persone. Una storia ancora recente, ancora in movimento, ancora viva. Carlo Lizzani una volta ha detto: pediniamo un lavoratore precario, seguiamolo nella sua quotidianità e scopriremo le tante nascoste avventure umane che si porta dietro. Lo stesso Carlo Lizzani, del 7 novembre del 1943. Roma era stata appena occupata dai tedeschi. Eravamo dopo l'8 settembre. Io e altri due compagni, Renato Mordenti e Marcello Bollero, avevamo deciso con altri gruppi antifascisti di fare delle scritte per inneggiare l'anniversario della rivoluzione d'ottobre che cadeva appunto in quel giorno. La lotta armata ancora non era nata a Roma. C'erano le prime formazioni dei GAP, ma non erano attive. Ci dividemmo per quartieri. A noi tre toccò la zona del centro. La sera a Roma cominciava il coprifuoco e la luce era sempre più scarsa, anche perché bisognava risparmiare sull'energia elettrica. Facemmo parecchie scritte, risalendo fino a Via Nazionale, dopo il Teatro Eliseo, più o meno all'altezza di Via delle Quattro Fontane. Lì una pattuglia tedesca ci fermò e vide le nostre mani sporche di rosso. Si accorsero anche dei pennelli. Non sapevamo ancora delle deportazioni, ma sapevamo di rischiare di essere arrestati e torturati. E la nostra paura più grande era di non riuscire a resistere e coinvolgere altri compagni. Col coraggio della disperazione facemmo un gesto assurdo. Avevamo tre mitra puntati sul petto. Ricordo ancora la sensazione del metallo appoggiato qui, subito sotto la gola, e a mani nude li alzammo con forza, quasi sbattendoli in faccia ai tedeschi. Loro rimasero allibiti e guadagnammo quei pochi secondi che ci permisero di scappare correndo in tre direzioni diverse. Ci spararono ad altezza Duomo, tanto che giorni dopo andai a curiosare e vidi le scalfitture delle pallottole lungo il percorso fatto tra l'Eliseo e l'imbocco del tunnel verso Viale del Tritone. Ma ce la cavammo. Il segno di Roma ribelle restò a lungo. Le scritte vennero cancellate, ma continuarono a intravedersi anche dopo, come i graffi delle pallottole sui muri. Quella sera, per prudenza, nessuno tornò alle proprie case. Il giorno dopo seppi che neanche i miei due amici erano stati catturati. È questa l'altra Roma. La Roma in cui stiamo passeggiando anche stasera, la Roma che attraversa le generazioni, che ci fa tornare ancora più indietro nella memoria, da Lizzani all'eroe ragazzino della scalea del Tamburino, la scalinata che da Viale Glorioso a ridosso di Trastevere, proprio giù in fondo, arriva a Via Dandolo, dove muore il sedicenne Domenico Subiaco, figlio di due contadini ciociari, che aveva voluto andare a Roma a combattere per difendere la Repubblica Romana. Il giovane Domenico, basso di statura, non ritenuto adatto alla guerra, combattente, senza fucile, quel 3 giugno suonò l'allarme e la carica: viva Roma! Viva l'Italia! e decise che era arrivato il momento di contravvenire agli ordini e dotarsi di un'arma. Raccolse il fucile di un compagno caduto al suo fianco, lo puntò contro le truppe d'Oltralpe e dall'alto della porta di San Pancrazio tirò a petto scoperto, finché una balla nemica lo colpì e lo gettò a rovescio e moribondo al basso. Su quella rampa nemmeno una targa che aiuti a ricordare la sua storia. Ma la Roma ribelle non dimentica. La Roma ribelle è meticcia e sa che quella del piccolo Domenico è la stessa storia che corre sulla stessa strada e arriva fino ad Audassa Nogo e alla sua casa, alla stazione Termini. Quando siamo arrivati da Rosarno, non sapendo dove andare, siamo rimasti alla stazione. Per me è il luogo più importante di Roma. Non conoscevamo nessuno e vedendo che in molti ci dormivano ci siamo sistemati su via Marsala. Era inverno e la notte faceva freddissimo, ma per fortuna in tanti ci hanno portato coperte, caffè e cibo per riscaldarci. Siamo stati fortunati, abbiamo conosciuto chi ci ha aiutato a mobilitarci per ottenere i documenti. Eravamo circa 200 e per prima cosa abbiamo fatto una grande assemblea. Eravamo feriti, non solo nei corpi, ma anche nella dignità. Così è nata l'Assemblea dei lavoratori africani di Rosarno a Roma e insieme alle associazioni locali abbiamo organizzato proteste e manifestazioni. Non ho mai rinunciato a lottare. Ogni volta che ci passo e vedo altri immigrati dormire là, ripenso a quel periodo in cui ho vissuto per strada. Non dimentico che la mia prima casa a Roma è stata la stazione Termini. Un'altra Roma ribelle, amata come quella del grande Mario Monicelli. Avrebbe potuto fregarsene e passare una vecchiaia di lusso in un appartamento ai Parioli a poltrire sulla sua montagna di successi e riconoscimenti, protetto da un muro impenetrabile di sacrosanta boria. Non si è mai fermato e non si è mai tirato indietro. Ha scelto di essere un regista popolare che credeva nella possibilità di aiutare lo spettatore comune a capire meglio il proprio contesto e se stesso. Aiutare lo spettatore comune a capire il proprio contesto, a vedere meglio i propri limiti e le proprie menzogne. Li metteva in luce per poterli combattere, per aiutare a cambiare. A questo Monicelli, educatore, rendiamo dunque omaggio con la nostra passeggiata. Al ribelle che odiava la retorica e le scene madri e voleva solo scene figlie, che sulla scrivania conservava la frase di Leopardi: chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo. Che ha partecipato a un film collettivo sulla Palestina e a uno sul G8 di Genova, che è stato socialista fino a Craxi e si è avvicinato al comunismo dopo la caduta del muro di Berlino. Che a un giovane Nanni Moretti spiegava paziente: ma cosa credi? Ma anche tu fai commedia all'italiana. Che ha partecipato volentieri alla trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa e rifiutato la Legione d'Onore. Che diceva: per l'Italia vorrei una bella rivoluzione e la speranza è una trappola inventata dai padroni. E lo facciamo questo omaggio anche a lui stasera, passeggiando per le strade che erano la sua casa, alle quali a oltre 90 anni ha dedicato un piccolo e affettuoso documentario. Vicino al Colosseo c'è Monti, che mostra gli artigiani, le botteghe, i bambini, i barboni, gli anziani che giocano a carte, gli angoli nascosti, i giardini dietro le mura e dentro i cortili tranquilli con palme e bambù. Abitava a Via dei Serpenti, passeggiava, dice qualcuno, vestito come capannelle, il personaggio dei soliti ignoti interpretato da Carlo Pisacane, cappelletto in testa e sciarpa al collo. A Via Panisperma andava dal barbiere Adriano e da Piero, il macellaio comunista detto Pol Pet. Pranzava da Valentino a Via del Boschetto, seduto al tavolo da solo, non amava essere riconosciuto perché la sua era una presenza quotidiana e garbata e il quartiere la proteggeva. Se insistete per saperne di più, alla fine qualcuno vi dirà che non c'è molto altro da raccontare, perché a Monti tutti lo sapevano che a Monicelli non bisognava rompergli troppo i coglioni. Anzi, di nuovo valore, ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. Considerò valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considerò valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. Considerò valore quello che domani non vorrà più niente, quello che oggi vale ancora poco. questi valori non ho conosciuto. Molti di questi valori non ho conosciuto. Non... Mio nonno Franco mi diceva: se vivi a Roma o se ci arrivi, c'è un posto dove proprio non puoi non andare, perché un'altra Roma sta tutta incisa su 335 nomi. E la trovi, mi diceva, in quella zona, verso le Ardeatine, con le case fatte con la paglia, sta Shanghai, no? Stava dentro una conca, che l'inverno l'acqua piovana che scendeva dai bordi di ste colline invadeva ste case basse, proprio fatte a pagoda, coi bagni all'esterno, coi lavatoi esterni. E mi ricordo che i ragazzi sfilavano le porte e ci facevano le barchette, perché l'acqua arrivava proprio al filo del davanzale. Là, ha macellato in fretta. Macellazione umana, clandestina, là, in un campo deserto dell'Appia abbandonata. E ancora più in fretta, con le mine, l'immondizia, l'infame fossa hanno colmata. Un'altra Roma è quella che sta nelle parole di Fortunata Tedesco, moglie di Cesare Tedesco, ucciso alle Fosse Ardeatine, intervistata da Portelli. No, io poi non ci ho creduto. Io non ci ho creduto fino a che non l'hanno ritrovato, Io non ci ho creduto, poi mano a mano che sono venuti fuori, ma io prima fino all'ultimo, io non ci volevo assolutamente credere, assolutamente. Infatti, quando sono andata lì, no? Mia sorella, siccome che abitavamo insieme, si aiutavamo, lei lavava, io stiravo, insomma, facevamo tutto insieme, lei c'era nata e aveva riconosciuto qualcosa. E allora un giorno mi disse: Senti, non c'è, guarda, però ci dovresti andare. Io no, io non ce vado, io non ce vado, non c'è sta lì, non c'è. Lei aveva detto a tutti: guarda che io ho riconosciuto la roba, ho riconosciuto tutto lì. E allora tutti a dire: ma va. E allora la notte io me lo sognai che stavo in mezzo a tanta gente, mi faceva così, mi diceva: ma va, vai. E allora ecco che io una mattina ci vado con mia sorella e mamma e ci vado, entro lì e c'erano tanti dottori, c'era il professor Ascarelli. Entro dentro a sta stanza, una stanza grande con tavolo a ferro de cavallo, con tutte ste cose, perché avevano levato addosso a tutti col numero mano a mano che trovavano la salma. Allora io sono entrata. Allora quando mi ha visto il professore: lei come si chiama? Venga qua, cocca mia, perché ormai è successo disgraziatamente. Però è un peccato che rimangono sconosciuti, no? Venga qua. Oh, ci credi? Ci credi che io mi sentivo come spigne da domani? Se non sarò stupida, ma io mi sentivo prende queste domani che mi spignevano. Io al primo posto che mi sono fermata, io ho riconosciuto. Ho riconosciuto subito la roba di mio marito. E allora, siccome che io non avevo mai pianto, no? Io non avevo mai potuto fare una lacrima, ma quando è stato in quel momento che io l'ho riconosciuto, il professore mi guardò: signora, ma lei, questo è mio marito, questo è un pezzo dei mutande, questo è il fazzoletto era bianco bordato giallo, il pezzo dei mutande da Homer, pullover, se l'era fatto fa durante che stavamo nascosti, e poi portava un vestito gessato che ci ha sposato, era un vestito blè a righe bianche, però era diventato tutto marone. Allora io dissi al professore: il vestito era blè, eccolo qua, è questo qua, è il vestito che ci aveva sposato, marone, tutto marone. Allora lui mi dice: ma è sicura? Sì, sono sicurissima. Allora vieni qua. E mi portò davanti a come una cassaforte, l'ha aperta, dice: in tasca che c'aveva? Dico: guarda, in tasca c'aveva un portafoglio che si era comprato in Africa e che adesso si vendono pure qua, no? Quelli con le pelli così pressate, con quei disegni. E più c'aveva una scatoletta di metallo, che siccome lui quando aveva fumato la cicca le metteva tutte dentro lì, per dopo rifacciosene un'altra, infatti, E poi dico: la cinta, guardi, è di cuoio tubolare. Era di cuoio tubolare. E poi che altro? E mi disse se c'aveva alla bocca qualche cosa. Io ho detto: sì, c'è qualche capsula, pure d'acciaio, c'aveva qualche capsula. E insomma, quando ho aperto la cassaforte a Ascarelli, il professor Ascarelli mi si abbraccia, mi dice: signora, signora ce ne stanno tanti di sconosciuti, magari fossero tutti bravi come lei a riconoscere suo marito. Infatti io l'ho riconosciuto. E dopo ho pianto, però dopo sono stata meglio. Ho pianto tanto che poi è passato tutto quel malore, quel nervoso, tutto, Eccola qui la storia. Eccola qui l'altra Roma. Quella Roma che tutti intorno s'alzavano impalcature e casamenti in costruzione. E grandi prati, depositi di rottami, terreni fabbricabili, e da lontano, forse dalla Marranella, dietro il Pigneto, si sentiva giungere la voce d'un grammofono ingrossata dall'altoparlante. Eccola qui l'altra Roma. Erano giorni stupendi quelli. Erano alberi, tanti alberi, pieni di frutti. Se li mangiavano tutti i frutti. Tutti i frutti dell'albero se mangiavano, non gli davano manco il tempo di maturare, se li mangiavano verdi. Nessuno sapeva il sapore degli frutti maturi. Erano giorni di gente semplice, de core, con la mano sul core. Ercore, maledetto ercore, chi ce l'ha? Ecco il cataclisma nostro, la rovina degli popoli, ercore. È per questo che ci tengono sotto, perché noi ci abbiamo ercore, loro no. E quando lo buttiamo giù il padrone, se continuiamo a andare in giro col core in mano. Erano giorni in cui l'estate ardeva ancora purissima, appena svuotata un po' dentro dalla sua furia. Via Fanfulla da Lodi, in mezzo al Pigneto, con le casupole basse, i muretti screpolati, era di una granulosa grandiosità nella sua estrema piccolezza. Una povera, umile, sconosciuta stradetta, perduta sotto il sole, in una Roma che non era Roma. In quella Roma dove mamma Roma, ancora oggi, corre, perché ha saputo, corre, urla e si dispera, perché è sola mamma Roma, perché la città non grida, le facciate delle case continuano a essere illuminate dal sole e la cupola di Don Bosco è là, è quella di sempre, ancora oggi è la stessa, mentre sale il vociare della città sempre più cinica e indifferente, tutto com'era e continua a essere, come la cadenza di una maledizione in quelle stesse strade dove anche uno come Stefano Cucchi ha vissuto finché non ha incontrato il suo destino. Non ha mai smesso di succedere. Nella guida alla Roma ribelle c'è una parte che a me piace tantissimo. Dice che lo spazio è metafora della memoria. Nella memoria ci sono tutti i momenti del passato, esistono contemporaneamente. Ricordiamo la nostra infanzia nello stesso momento in cui ricordiamo gli eventi del giorno prima, e nello spazio di Roma stanno uno accanto all'altro, nello stesso tempo, i segni di tutti i tempi della sua lunga storia. Era questa l'altra Roma che volevamo ricordare, perché è la città in cui stiamo ancora vivendo, in cui c'è ancora da fare, da sognare, da liberare, in cui c'è ancora Radio Onda Rossa, in cui c'è ancora da capire, da cercare, come si cerca la felicità, come la cercava Trilussa. C'è un'ape che si posa su un bottone de rosa, lo succhia e se ne va, e tutto sommato la felicità è una piccola cosa, perché Roma te fa piagne, te fa ridere, perché te la senti scritta addosso anche se a volte la odi, perché fai fatica a lasciarla, perché ti inchioda ancora una volta ai suoi angoli, alle sue strade, alla sua luce, come un amante che non puoi dimenticare, che ti torna a cercare, che non ti lascia andare, come una storia d'amore che non finisce mai. Noi gli daretta Roma, che t'hanno coglionato, sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi te dico no, che un morto si è ammazzato, allora è segno certo che è stato assassinato. Voglio cantare così, fiorin fiorello, mai non mi rispondi. Me canti uno stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi Pier Cortello e andiamo da Roma. Chi se fa pecorone e il lupo se lo magna, abbasta uno scossone, voglio cantar così. Fior de limone, bella hai detto Roma, con noi non te ce metti, ma quale strada batti, se posso sapere che aspetti, per cui mo state zitta. Scrivete questo, Roma. Non basta usar coltello, qui per fregar padrone bisogna usar cervello. Aspetta, abbada che caschi. Non casco, ma butto.